Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Se uno spot sui sex toys rivolto tutto alle donne sbarca in TV, è sicuramente un segno dei tempi. L'occasione per noi, l'orario del resto ce lo consente, per parlare di un settore in cui sono caduti molti tabù e molti imbarazzi. Un settore che sperimenta nuovi format e nuovi modi di comunicare. Prima la crisi, poi il digitale, il commercio italiano ha accettato la sfida e inizia a guardare al futuro con più fiducia. Nuove aperture e un modello tutto nostro da esportare. Moda e design guardano al mondo animale con un'estetica tutta nuova, lo dimostrano i casi che vi raccontiamo nel focus sui trend di questa settimana. Vogliamo un mondo dove le donne non sono oggetti sessuali, ma possono averli tutti. Eccolo qui lo spot e il claim che racconta una piccola grande rivoluzione in cui le donne sono padrone anche del proprio piacere. A promuoverlo mysecretcase.com. Ecco che cosa ci ha detto la fondatrice Norma Rossetti. È un progetto nato nel 2014 per gioco. Ci tengo sempre a ribadire questo aspetto, nel senso che non è stato studiato a tavolino sulla base di numeri ed è conosciuto in Italia come il primo shop online pensato per il piacere delle donne. La prima intenzione è stata quella di lasciar decadere totalmente l'idea del sexy shop tradizionale legato all'immaginario degli anni Ottanta, delle vetrine oscurate. E l'Italia, rispetto al resto dell'Europa, che già aveva avviato questo processo, era abbastanza pronta per andare oltre il tabù e parlare attraverso la donna di bellezza, di normalità, di piacere, quello che noi definiamo in My Secret Case come cultura del femminile. E il canale online, tra l'altro, come dire, favorisce, ha favorito, immagino anche a livello strategico, la caduta degli imbarazzi nell'acquisto. Assolutamente, sicuramente il mezzo online facilita un rapporto diretto, ma che però in realtà non è così diretto, nel senso che c'è l'anonimato, e insomma anche i pacchi sono anonimi, spediamo soprattutto in uffici, quindi insomma questa barriera si è un po' superata, ecco. Da qui alla decisione di fare uno spot in TV, insomma, un bel cambiamento, anche un segno dei tempi in qualche modo. Io non vengo dal business, ma dalle arti visive. E questo mi ha permesso realmente di immaginare un mondo in cui le donne non fossero più oggetti sessuali, ma potessero averli tutti. Questa intuizione, questo desiderio è poi diventato anche il claim di questo spot. La TV, diciamo, è stato il coronamento di un sogno, ci abbiamo messo un anno, assolutamente è segnale di un'Italia pronta, aperta. Questo è stato anche possibile grazie al sostegno, insomma, delle donne soprattutto. L'immagine femminile che ne emerge è una donna padrona e protagonista, insomma, anche del proprio piacere, diciamolo, e soprattutto però non è una donna, appunto, vittima di immagini sessiste, di una logica sessista che spesso c'è in pubblico. Essere e avere. Non combattere il nord o il sud. Combatti ogni battaglia ovunque. Sempre. Nella tua mente. Se non mettiamo da parte le nostre rivalità, moriremo tutti. E non avrà più importanza quale scheletro siederà sul trono di spade. Focus sui trend. Se siete tra i fan del Trono di Spade avrete sicuramente presente i mantelli di Jon Snow e degli altri guardiani della notte. Forse però non sapete che qualche settimana fa la costumista della fortunata serie TV ha svelato che sono realizzati con dei tappetini Ikea. Ebbene sì, il colosso svedese allora non si è lasciato sfuggire l'occasione e ha diffuso sui propri social una guida per realizzare in casa il proprio mantello dal foltopelo per proteggersi dalle rigide temperature della barriera. E allora partiamo da qui per parlare di un materiale, una lavorazione, uno stile, insomma, non so bene come definirlo, sempre più presente nella moda e nel design, moda e design che guardano al mondo e all'ispirazione animale con un'estetica tutta nuova, lo rivelano i casi che vi raccontiamo insieme a Valentina Ventrelli di Future Concept Lab. Ciao Valentina, bentrovata. Buonasera a tutti. Allora, con cosa iniziamo per raccontare questa tendenza che voi come definite, Valentina? Ma in realtà io amo definirla un po' alla Gruffalo. Non so se conosci questo bellissimo libro inglese di... Favole, giusto? È un piccolo, veramente capolavoro di letteratura per l'infanzia inglese, non vecchissimo perché ha meno di 20 anni, però è diventato un classico internazionale proprio grazie a questo Gruffalo, che è il protagonista, di fatto assente per metà della storia, perché il vero protagonista è un furbissimo topo che attraversa il bosco e tutti gli animali gli parlano di questa bestia orrenda, pelosissima, con le zanne affilate, le corna appuntite. Poi il topolino incontra per caso questo Gruffalo, che sì, è orrendo, ma è altrettanto tenero. Più che un'orrenda bestia, sembra un enorme peluche, per cui poi la storia è come il topo lo aggira e lo usa per terrorizzare di fatto tutto il bosco. È una bellissima storia sul pregiudizio, poi, sostanzialmente. Certo. E anche su il pregiudizio rispetto alla bestia, per cui io la chiamo un po' tendenza Gruffalo perché è una tendenza molto pelosa, cioè molto animalesca, ma di fatto estremamente tenera. Quindi questa dimensione onirica, fiabesca, che dicevamo ritroviamo nel design e nella moda? Lo ritroviamo nella moda, lo vedremo tantissimo, però è interessante un caso anche che arriva dal design, che dopo anni e anni di minimalismo, di linee anche molto pulite, sta tornando a questo iperdecorativismo. Però in questa iperdecorazione c'è un caso molto divertente di questi due gemelli di origine texana, Nikolai e Simon Haas, che sono considerati attualmente tra gli artisti, perché più che designer loro sono veri e propri artisti a Los Angeles, che sono diventati famosissimi anche all'interno dello Star System, dove producono queste poltrone, questi oggetti, questi vasi in tantissimi materiali, dove però l'aspetto animale anche un po' fiabesco davvero, perché il tema qui non è la tigre o, come dire, l'orso, sono forme antropomorfe dove c'è un allure di bestialità che però quasi sempre, così come nel caso della meravigliosa poltrona dei fratelli Haas, che consiglio di andare a guardare. L'abbiamo già postata, Valentina. Perfetto. Sulla nostra pagina Facebook, perché è veramente divertente. È divertente. E l'animalier in questo caso non c'entra niente. Assolutamente, proprio. Questo è un misto tra una capra, un muflone, però poi sdrammatizzata brillantemente con questi piedini d'ottone. Assolutamente. Ecco, il tema dell'ironia torna sempre molto forte, per cui sdrammatizza la bestia. Passiamo agli accessori. Parliamo di un accessorio che o si ama o si odia, per così dire. Le ciabatte con la pelliccia, Gucci, ma non solo, se ne sono viste addirittura anche sulle spiagge quest'estate. Certo, le rifatte Birkenstock. E proprio l'idea è prendere delle icone, per cui il mocassino di Gucci piuttosto che il sandalo di Birkenstock, e renderlo animale attraverso l'uso della pelliccia, una pelliccia che è sintetica, sembra più un tappeto del bagno, appunto come citavi giustamente tu sul mantello di Snow. Cioè, il tema è l'ironia anche con questa citazione, per cui diventano delle zampette, cioè è la riproposizione di zampette che però poi sono impreziosite dalla fibbia di Gucci, dalla pelle pregiata, eccetera, però con questo tocco appunto un po' animale, un po' bestiale, un po' tirar fuori la bestia buona che c'è in noi. Che c'è in noi. il trend, la tendenza è nella moda è fortissima, è protagonista per moltissimi capi di tutti i generi dell'autunno e inverno, quindi che troviamo già nei negozi. Anche in questo caso, Valentina, abbiamo postato la gallery sulla nostra pagina Facebook. Che cosa citiamo? Beh, allora io intanto invito veramente gli ascoltatori a dare un'occhiata alla gallery, perché è ricchissima, cioè non ci sono un paio di foto, ma ci sono veramente, c'è la rappresentazione delle ultime sfilate, tra l'altro dell'autunno-inverno, ma anche stiamo guardando in questi giorni, ci sono citazioni animalesche anche nella primavera-estate prossima. La galleria è molto ricca, ma si possono citare Marni con questi meravigliosi cappotti davvero che sono un'apoteose rosa confetto di pelo misto a tappeto, piuttosto che McQueen, che ha riproposto ancora una volta soprattutto negli accessori, nei boots, è tutto caratterizzato da questi colori. Citavo Marni, ma anche Miu Miu ha riproposto sia nei cappotti che negli accessori, con i grandi cappelli in questi colori confetto, fluo, in cui davvero il gioco, l'ironia accompagna questo desiderio, come dicevo prima, di tirar fuori un po' la bestia che c'è in noi. Beh, qui l'effetto peluche un po' c'è. Ma infatti più che bestie, tutti sembrano dei meravigliosi peluche da abbracciare. Cioè, tra l'altro, l'altra cosa interessante da sottolineare è che questa tendenza l'abbiamo poi vista anche in collezioni come Fendi di Karl Lagerfeld, per cui con pelo vero, ma trattato come se fosse peluche. Quindi un'estetica completamente diversa in questo caso. Assolutamente nuova. Che supera anche un po' le barriere, insomma, ideologiche o di sostanza, pur legittime, assolutamente. Assolutamente. Non entriamo nella questione. No, che ma ci senza sono. Entrare nella questione, esatto. Però è interessante, per cui è una citazione vera e propria, senza appunto nessuna implicazione ideologica, con anche un'applicazione di creatività molto forte, perché come la galleria racconta molto bene, abbiamo rappresentato dall'alto al basso tantissimi marchi, tantissime griff, e ognuno ha anche dato un'interpretazione, top shop, quindi fino ad arrivare a Top Shop, esatto, al fast fashion, ma con un'interpretazione comunque molto personale. Tutti raccontano la stessa bestia, lo stesso gioco, con però sfaccettature molto diverse. Valentina Ventrelli, grazie, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Il consumautore. Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia di Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Buonasera Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Abbiamo detto più volte della contrapposizione, da molti definita così, tra online e offline, che invece non è più così, va vista nel segno della complementarità, e tu questa sera ci racconti qualcosa in questo senso. Sì, vi racconto di una tendenza che si chiama on-life expansion. Dell'on life tu stessa spesso hai parlato in trasmissione, è ormai un dato di fatto. Se guardiamo soprattutto ai nostri figli, non solo ai millennials ma anche alla Z generation, ai quindicenni, a chi vive online, ti rendi conto che per loro non esiste una differenza, e capiscono anche come amplificare la loro vita vera attraverso il mondo digitale. Quindi sull'on life ormai diciamo che siamo tutti d'accordo. La cosa interessante è expansion, l'espansione, perché noi per anni abbiamo pensato che l'uso del digitale, dei dispositivi digitali, portasse a una contrazione del tempo e dello spazio, quindi lo spazio non esiste più e il tempo è sempre molto veloce. In realtà questo non è più così vero, perché noi possiamo espandere ad esempio il tempo dedicato alle nostre passioni, ai nostri gusti e quindi anche nel consumo, anche alle nostre attività, alle nostre ritualità di consumo, attraverso il digitale. Quindi in realtà sia in termini di tempo, dedichiamo più tempo, ma anche di spazio, perché possiamo trasferire le nostre esperienze, non so, in cucina, mentre cuciniamo, sul mondo digitale. Ecco, quindi questa idea di espansione dell'esperienza è molto importante se parliamo di on-life. Questo fenomeno nel retail è assolutamente fondamentale. Le ricette più fortunate, più indovinate, sono quelle appunto che rendono fluida questa dimensione tra l'online e l'offline. Eh sì, e tra l'altro, per essere così simbolici, qualche anno fa avremmo detto che la guerra tra l'on-life e l'online, cioè l'offline e l'online, era la guerra tra Amazon e i grandi retailer, Walmart, no? Ad esempio. Oggi scopriamo che da un lato Amazon apre i punti fisici e dall'altro Walmart ha dei programmi online straordinari di vendita. Quindi non c'è più la contrapposizione, non esistono due mondi, ne esiste uno solo, e chi si attrezza nell'uno e nell'altro probabilmente vince. Bisogna far sì che il mondo digitale ci aiuti ad assaporare i nostri prodotti, a farli assaporare nel mondo, a farli conoscere, anche toccare in modo digitale. Insomma, le strategie poi sono molte, così da amplificare appunto la nostra conoscenza nel mondo. È così, se smettiamo di pensare che esistono due mondi separati e contrapposti e lavoriamo invece sulle nostre qualità, avremo attraverso il digitale delle straordinarie frecce ancora al nostro arco. Grazie a Francesco Morace, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Essere Avere finisce qui, a domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.